Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti ragazzi, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronanti in regia, Edoardo Lavezzano in redazione. Oggi voglio i telefoni bollenti per questa vigilia di Barcellona-Juventus 8-0-0-24-0-0-24, partita che Pardo sta per volare a raccontare. Ciao Pardo. Ciao. Ma c'è la Spagna che si gioca tutte le sue corone e tutte le sue teste coronate, quindi c'è anche Filippo Maria Ricci. Buongiorno. Buonas tarde. Io sono già preoccupato per l'appuntamento di domani a pranzo tra Ricci e Pardo e quella roba con i fagioli che si chiama, non mi ricordo più. Cipirone con Cudia. So che Pardo è molto emozionato. È molto emozionato per questo appuntamento, sì. Ragazzi, se siete d'accordo, io partirei dalla prima testa coronata che potrebbe saltare, che non è spagnola ma è tedesca. Credo che Filippo tu sarai questa sera a vedere se Carlo Ancelotti può riuscire nell'impresa di far fuori il Real in casa sua. Sì, ci sarò, ma la vedo dura, poi però tutto può succedere perché comunque il Bayern ha una, diciamo, ha i mezzi per rovesciare questo risultato. La chiave è un po' quella che secondo me ha indicato ieri Ancelotti. Prima ha detto che ci vuole la partita perfetta per loro e poi ha detto sì, il Madrid fa sempre gol, sono 54 partite a segno consecutive, però ne incassa anche. E un po' lì, questa può essere una partita da, non so, da 3-2, da 4-3, una partita con tanti gol, io vedo, e vediamo chi ne segna di più. Però il Bayern ha buttato via la sua qualificazione insieme al rigore di Vidal. Se segna 2-0 e chiude il primo tempo sul 2-0, insomma, le cose sarebbero andate in maniera molto molto diversa. No, Pierluigi, mi fa sorridere il fatto che si parla tanto di allenatori fuori classe, di top coach, di top manager, di tutte queste cose qui. Mi fa abbastanza sorridere il fatto che Zizou Zidane dice candidamente: ma io fino a un mese fa ero tra coloro che sono sospesi dopo aver vinto la Champions League, e adesso ha praticamente la Liga in mano e la qualificazione, non lontana dalle mani, no? Questo Zidane allenatore di cui nessuno parla, però da quando è arrivato al Real Madrid incassa. Non mi ricordo chi ha detto che il calcio è liquido, ma deve essere una persona molto intelligente, perché veramente no, perché alla fine è sempre quello, soprattutto a livello di competizioni europee, a livello di coppe. È chiaro che per sliding doors di Bayern Real Madrid sono stati chiaramente in quel rigore, che tra l'altro non c'era, lo ricordiamo, però comunque era stato dato, sbagliato la Vidal. E Zidane ha una sua cifra, ha trovato una sua cifra. Io ero abbastanza scettico lo scorso anno quando è arrivato, ma lo eravamo tutti, non mi fa impazzire come gioca, francamente, però questa squadra ha una capacità di uscire dalle situazioni anche complicate, e oggettivamente a un certo punto era complicata a Monaco di Baviera, impressionante. Quindi sarà merito dei giocatori, sarà merito di Cristiano, che nel momento più difficile ha trovato questi due gol, però anch'io vedo il Real adesso largamente favorito. No, sarà merito anche di Zizou, no Filippo? Qualche merito ce l'avrà anche lui. Assolutamente. No. Quantomeno dal punto di vista del carisma, ancora della... dell'umiltà. Bravo. Anche dell'umiltà. Infatti l'aver detto l'altro giorno, tu penso fossi presente, ma io un mesetto fa ero lì che non sapevo neanche se sarei stato confermato. Carlo, una cosa. Se stasera il Madrid esce e poi perde il classico, Milan salta. Cioè, ancora oggi, perché è vero, su Marca hanno scritto succeda quel che succeda, rimane. Non è vero, perché dipende come esci anche, no? Se lui perde Champions e Liga in 5 giorni, no, non è vero che rimane, ci sarà qualcun altro. per me comunque la sua misura è diciamo, ha trovato una certa ironia in sala stampa, una grande grazia. E lascia stare i giocatori, che lo sa che la chiave ancestiana ha successo, per cui li lascia nel loro brodo, no? E una grande umiltà, lui sa benissimo che non è ancora un grande allenatore, ma anche perché allena da un anno, prima stava in terza serie. È chiaro che fa ancora degli errori, i suoi cambi si possono discutere e via dicendo, però tra lì è uno che comunque ci sa fare, ha usato le armi che aveva al meglio. Certo, certo, certo, ed è così. Mentre l'altro, che è già considerato un grande allenatore, e mi sto riferendo al Ciolo Simeone, attenzione perché dopo le 15 ne parleremo ampiamente, perché pare ci sia un assalto fortissimo dell'Inter sul Ciolo Simeone. Risulta Madrid, Ricci? No, no, io continuo a pensarlo, continuo a vedere molto, molto complicato. Molto, molto complicato. Perché allora, per me ci può essere una chiave di lettura è se l'Atletico vince la Champions. Allora, vabbè, forse è la me. Però lui, una settimana fa, è andato al Wanda Metropolitano, che è questo orribile nome del nuovo stadio dell'Atletico, e col caschetto a farsi fotografare con la moglie, forse con la fidanzata o quello che è la compagna, sì. E anche lei col caschetto. E quello è, voglio dire, ha dato. Sì, ma io non guardo. È molto chiaro. Io non mi fido più di nessuno. Compagna lì il primo anno. Non lo so. Sì, no, ma no, io non mi fido più di nessuno, nemmeno di Simeone con il caschetto a fare le fotografie con la moglie. Intanto questa sera non ci sono grossi dubbi sul fatto che andrà a parcheggiare il solito bus Pierluigi sulla linea di porta dell'Ester. 1-0 non è una roba che ti lascia tranquillo. No, 1-0 tranquillo, qui l'incognita più che altro di natura fisico-ambientale, perché insomma non è che l'Ester sia una squadra, con tutto il rispetto, capace di imporre il proprio gioco dal punto di vista tecnico. La Real Madrid, lo sappiamo, è la più brutta fra le squadre belle, o forse la più bella fra le squadre bruttine. È una squadra che ha della capacità di far giocare male gli avversari, la propria arma migliore. Però è una squadra di grande qualità a livello europeo. L'Ester a meno, è chiaro che l'1-0 dell'andata li tiene in bilico, li tiene ancora in grado di centrare la qualificazione. L'ambiente sarà un ambiente caldissimo, veramente tipo stadio inglese dei tempi d'oro, come si giocava in Inghilterra negli stadi inglesi 30 anni fa. E quindi questa è l'incognita principale. Però insomma, io non credo che l'Ester abbia le capacità per poter imporre il suo gioco per 90 minuti e far sì che l'Atletico Madrid venga schiacciato. Semmai l'Atletico Madrid potrebbe scegliere, visto il risultato dell'andata, di avere un approccio prudente per provare a colpire in contropiede. Ecco, questa mi sembra una chiave abbastanza importante. L'1-0 anche qui è più brutto dei risultati belli, se vuoi, o viceversa. È comunque un risultato che lascia abbastanza. Ragazzi, chiudiamo con un giro di pronostici, mettendoci dentro anche la Juventus, partendo dalle partite di oggi: Real Bayern, Leicester, Atletico Madrid e poi Barça Juve. Filippo. Io vedo passare le due di Madrid, che sarebbero in semifinale per il terzo negli ultimi 4 anni, la terza volta, e la Juventus. Tu, Pier? Sì, e anche il Monaco. Insomma, il Monaco è cosa fatta? È un turno comunque falsato, lo sappiamo, ma vabbè. Comunque, il Monaco è cosa fatta? Insomma, le partite dell'andata sono state abbastanza chiare come risultati. 2 vittorie esterne su 4 significano un grande vantaggio ovviamente per Real Madrid e Monaco. Il Dortmund credo che sia ancora veramente sotto shock. Sì. E ne è stata certamente... Poi se volete torneremo a parlare, è l'aspetto meno importante ovviamente di una vicenda drammatica, ma è stato certamente penalizzato, non ci sono dubbi, dal fatto di aver dovuto giocare questa partita in quella condizione fisica e psicologica. È stata una vergogna, come pensa Filippo Maria Ricci, e io condivido. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domani, non più tardi di domani, di Barcellona-Juventus parleremo subito dopo il traffico, approfondendo il discorso. Convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. siamo consapevoli di essere a metà dell'opera, siamo consapevoli che l'altra metà però sarà ancora molto più difficile, vuoi perché in casa il Barcellona riesce sempre a tirare fuori qualcosa di magico e non lo ha fatto solo un mese fa, che vabbè, è stato incredibile dopo un 4-0, ma in questi anni hanno fatto tante rimonte in casa, però tante anche altre volte non ci sono riusciti, quindi la differenza sarà quella, sarà noi cercare di imbrigliare il loro gioco e soprattutto cercare di far gol, quella è la chiave, perché l'obiettivo nostro deve essere quello mercoledì di andare a segnare. Questo un abbottonato Chiellini. C'è appena stata la conferenza stampa di Luis Enrique che ha detto: la Juventus vuole fare un gol, va bene, il nostro obiettivo è quello di farne 5. Io 5 gol a questa Juventus non ce li vedo. Poi ovviamente chiama il pubblico, poi ovviamente manda un messaggio ai tifosi, consiglio ai tifosi di non andare via all'80esimo come ha fatto con il Paris Saint-Germain. Chi sarà allo stadio avrà la possibilità di vivere un'altra serata magica, possiamo fare 3 gol in 3 minuti. Insomma, mi sembra, l'ho già detto, uso la stessa immagine, quello che urla nel bosco per farsi passare la paura. Uno che la Coppa dei Campioni, l'ultima della Juventus, l'ha toccata con le mani, è Moreno Torricelli. Ciao Moreno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dunque, Luis Enrique prova a spendere tutta la fiducia che ha. Quanto possiamo credergli, onestamente? Ma guarda, finché c'è vita c'è speranza. La Juventus ha fatto una grandissima partita e ha l'occasione per diventare grandissima. Il Barcellona, memore dal Paris Saint-Germain, crede e venderà carissima la pelle, perché anche per loro è l'occasione di ribaltare un risultato che è qualcosa di incredibile. La Juventus se la gioca come l'ha fatta nel turno scorso e ha tantissime possibilità. È difficile credere in una Juventus che prende così tanti gol. Però se la deve sudare, se la deve giocare. Sì, la deve giocare per 90 minuti con grande attenzione, con grande accortezza, però tu ce la vedi la difesa della Juventus farsi travolgere come ha fatto il Paris Saint-Germain? Ci ha provato Luis Enrique a dire, ma col Paris Saint-Germain era anche più difficile, perché lì partevamo dal 4-0. Però il fatto è che il Paris Saint-Germain ha cominciato a farsela sotto ancora a Parigi prima di salire sull'aereo. Questa Juventus a me sembra un'altra cosa rispetto ai francesi. Assolutamente, la differenza che sta facendo la Juventus rispetto alle altre squadre d'Europa è la grandissima difesa. Che è la migliore del mondo, sei d'accordo con me? Assolutamente, insomma, appena 2 gol subiti fino adesso, riuscire a non far segnare il Barcellona in casa. Il Barcellona, non so, ogni partita credo che il suo gol lo fa, sì. Per cui è la grandissima forza della Juve, e non dimentichiamo che ha un buonissimo attacco che aspetta questa occasione per diventare grandissimo, contro una difesa che sta facendo acqua. Sta facendo per acqua, cui... sì, ha preso 7 gol nelle ultime 3 partite, compresa tra Champions e Liga, una Liga che aveva riacciuffato e che poi ha buttato via praticamente con quella sconfitta. Assolutamente, assolutamente sì. La Juventus deve essere brava a giocare lì, a trovare la forza di andare a far male al Barcellona, perché gli può far male anche attaccandolo. Per cui se il Barcellona, l'impressione che ho avuto qua dalla sfida di Torino è che se la Juventus non è così brava ad alzare un po' il ritmo della partita, loro giocano praticamente quasi da fermi aspettando le fiammate di Messi e Neymar. La Juventus deve essere brava a mettergli fretta, a non difendere passivamente e cercare di andare a far male, perché anche davanti noi abbiamo grossissime qualità. Non ti fa un po' ridere quando Luis Enrique dice che all'andata non ha commesso errori? Se domani sera ci regala di nuovo Mathieu contro Cuadrado, siamo contenti? O se manda Mascherano a marcare Chiellini sui calci d'angolo, sui calci d'angolo siamo contenti, Guarda, un'arma che ha la Juventus rispetto al Barcellona è proprio la forza sulle palle alte, per cui i calci d'angolo possono essere decisivi, insomma. Il Barcellona non ha tanti centimetri come le ha la Juventus, e per cui ogni occasione bisogna sfruttarla, bisogna avere coraggio e giocarsela, perché non si può non fare altrimenti. Come sai, siamo aperti sempre, Tutti Convocati si chiama così proprio perché tutta l'Italia dello sport è convocata in questo programma telefonicamente. Bene. 800 24 00 24. Alessandro, buongiorno. Brutto, buongiorno. Ancona, buongiorno, dica. Eccoci qua. Dunque, io sono juventino. Sì. Vorrei chiedere. A Torricelli? A un suo... C'era, sì. Lei, quanti anni aveva quando Torricelli alzava la Champions? È vero, molto giovane, mi sa che solo facevo il liceo. Faceva il liceo? Vabbè, quindi se lo ricordo bene. Vabbè, se l'hai goduta. Appunto. Dunque, io volevo chiedere, sono un po' emozionato, se Messi, insomma, che è sicuramente l'asso nella maniera di questo Barcellona, è evidente che la Juventus sia il Paris Saint-Germain, quanto possa, insomma, dipendere, insomma, questa squadra blugrana, quanto possa fare male alla Camp Nou? E tu volevo sapere questo di Dybala, che secondo me è un giovane che potrebbe fare ancora molto bene e forse puntare la Juventus nella stagione a venire più con il suo stesso Pipita. In tutto questo, Michele Caruso. Michele Caruso, che vuol dire? In tutto questo, Michele Caruso, non l'ho capita. È un Dybala che può fare molto bene, sì, usiamo pure gli eufemismi. Secondo me Dybala, se arriva, guarda Moreno, te la butto lì, Dybala, se arriva alla fine di questa Champions facendo quello che hai fatto tu, cioè alzandola, poi fate gli scongiuri che volete, eccetera, da protagonista come è stato nella partita con il Barcellona, beh, allora potrebbe essere anche l'anno di una, visto che sono cambiate le regole e non è più il ballottaggio Ronaldo Messi, potrebbe essere anche da pallone d'oro. Ma guarda, storicamente il pallone d'oro viene dato a chi conquista i trofei e chi riesce a fare la differenza in determinate partite. Dybala l'ha fatta all'andata e sa benissimo che per lui è un'occasione d'oro per alzare il tiro. Lui ha tutte le qualità per giocarsela, mi sembra che quello che mi piace di lui è che più che le qualità calcistiche, chiaramente essendo così giovane con l'esperienza possono solo che migliorare, sì. Mi piace l'aspetto mentale, il modo comportamentale di questo ragazzo, e ti fa capire che se ha un'occasione per diventare grandissimo lui la coglie, per cui dipende tutto da lui. Sì, la Juve poi tra l'altro l'ha gestito molto bene da quando è arrivato fino ad oggi. Sì, la forza della Juve è saper anche aspettare i giovani, crederci fino in fondo, e insomma da 5 anni a questa parte sta facendo un gran lavoro. Senti Moreno, sono contrario ai paragoni epocali, ma quanto somiglia questa Juve alla tua? E aggiungo, quanto si somigliano i due toscani Lippi e Allegri? Ma guarda, non è mai piaciuto paragonare una squadra all'altra. Neanche a me. Per cui noi siamo stati grandissimi, la Juventus sta facendo cose grandissime, perché insomma può entrare nella leggenda quest'anno, è in competizione in tutte e tre le competizioni, per cui insomma è una grandissima squadra anche questa. Rispondiamo prima di salutarti a Roberto da Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon lavoro. Niente, visto che siamo in questa vigilia qua delle grandi partite, io però vorrei parlare di qualcos'altro. Dica. Per esempio, un'idea che mi viene, magari qualcun altro l'ha già detto. Quando ci sono i famosi minuti di recupero delle partite, io sono milanista da sempre, sessant'anni da sempre, perché non si fa in modo che i minuti di recupero siano effettivi? Cioè si ferma il cronometro come nel basket, si ferma il cronometro, cioè quello si butta per terra per fare un cambio, prima va uno, poi va l'altro, e poi il attaccato a palla ti dà la palla e tu non lo vuoi, ma vuoi quell'altro, poi lasci la rimessa e i minuti passano. Dal momento in cui si fissa i 5 minuti con il cronometro che si ferma sul tabellone dello stadio, in modo che tutti quanti possano vedere. E così sì. Il furbo non lo può. Beh, mi sembra che Orsato l'abbia di fatto seguito questa regola del derby, no Moreno? Guarda, io gli rispondo subito: da che c'è mondo e c'è calcio, da che c'è calcio e c'è mondo. Infatti, il gestire una partita quando ci sono i minuti di recupero si è sempre fatto quella di magari stare giù 30 secondi in più, per cui è una cosa che è sempre esistita e facciamola esistere, perché è normale spezzare il ritmo all'avversario nei minuti finali di una partita può essere la chiave che ti fa vincere la partita, per cui viviamolo anche serenamente. No, ma sono d'accordo con te. Poi se c'è l'arbitro inflessibile come Orsato, va dagli allenatori, va dai giocatori e gli fa vedere l'orologio e gli dice: guardate, chiaro, che non sta andando avanti in questo momento, chiaro, il tempo, perché io non ho l'anello al naso. Poi lì rimane nell'ambito della libera interpretazione di un arbitro che io lascerei vivere un po' l'episodio negativo, queste cose qua, in maniera più serena, e sicuramente ci sarebbero molte meno polemiche. Un'ultima cosa che ti chiedo: ce la fa secondo te Carletto a ribaltare il risultato a Madrid contro Zizou Zidane? Ma ci crede, perché il Real Madrid anche lei difensivamente può subire un pochettino. E il Bayern sono tedeschi, sono quadrati, fino a questo momento non hanno mai avuto un passo falso, e per cui sì, il Bayern ha l'occasione anche lei di fare il risultato e qualcosa in più, per cui fa bene a crederci. Anche se ti vendo questa statistica, il Real Madrid quando ha vinto in trasferta ha passato il turno 29 volte su 30. Il Real Madrid è una bella potenza, lo sappiamo, che insomma le squadre, ma anche il Bayern è una bella potenza, per cui ha le qualità, essendo tedeschi in più hanno la mentalità di non arrendersi mai, e questo può essere un fattore importante da mettere in campo. Grazie Moreno. Grazie a voi. Buona Champions. Grazie, a presto Moreno Torricelli. Allora, noi ci fermiamo per la borsa. 800 24 00 24 è il nostro contatto. Dunque, Luis Enrique: alla Juve possiamo fare 3 gol in 3 minuti. Loro devono fare un gol, dicono che devono fare un gol, vero, ma noi l'obiettivo nostro è fargliene 5. Che effetto vi fa? 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Tanto com'è, continuano ad arrivare diversi messaggi. 349-238-6666, che vi ricordo vale sia per i WhatsApp che per gli SMS. Facciamo che la Juve si porta sul 2-0, poi vediamo che dice Luis Enrique. Anche per la Juve, scrive Gabriele, l'obiettivo è fare 5 gol, 3 all'andata e 2 al ritorno. Poi c'è un milanista: il gufismo vale, come quello di Danilo, se succede sarà grande festa. C'è, dice un ascoltatore che scrive: sono milanista e da buon milanista mi verrebbe da gufare, però di fronte a cotanta sboronata tifo Juve tutta la vita. Denis dalla provincia di Verona, buongiorno. 800 24 00 24 numero verde, dica. Sì, grazie Carlo. Niente, era per un discorso di un errore che secondo me aveva fatto Allegri ai suoi tempi con il 2-0 in casa a Milano e andando, va bene, con una squadra mediocre, andando a Barcellona a giocare tirando la squadra in difesa sulla linea proprio dell'area, ecco. Secondo me questa lezione Allegri se l'ha scritta dentro di sé per tutta la vita. Beh sì, Allegri è anche cresciuto come allenatore, come gestore di uomini, gestore di risultati. La Juventus ha giocato in maniera difensiva ma impeccabile all'andata sul 2-0 con il Barcellona, poi andando a rifilargli il terzo gol. Quindi io credo che la Juventus, che ripeto ha la più forte difesa del mondo, e non mi immagino la più forte difesa del mondo subire 5 gol, beccare 3 gol in 3 minuti come nei sogni di Luis Enrique, che si vede che ha tanta voglia di vacanza perché ha anche fatto una dichiarazione strana. Questa: avrei preferito un mese di pausa tra andata e ritorno, magari anche con una vacanza alle Maldive. Sapevamo però che ad aprile avremmo dovuto affrontare questo calendario, l'unica cosa certa è che domani rischieremo. E vabbè, preferiva andare alle Maldive e invece andrà, si siederà sulla panchina del Camp Nou. Massimo da Taranto, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che da tifoso interista devo riconoscere, faccio gli auguri alla Juventus che ha fatto una grandissima partita all'andata. Non penso proprio che riesca il Barcellona a fare 5 gol, come ha detto lei poco lei fa. Lei sa perfettamente che fare gli auguri porta male, l'ha fatto apposta. Allora in bocca al lupo. Ah, va bene, ok. No, giusto per la cronaca. Dica, stava no. Dicendo? No, penso che non ce la faccia a fare 5 gol alla Juventus a una difesa così forte. Anche perché poi Luis Enrique deve fare quello, deve spronare i suoi giocatori, deve dire che loro sono i più forti e quindi ci sta una, come hanno detto, una tanta, come ha detto quel collegamento, quel tifoso WhatsApp, tanta sboragine. Sì, ha fatto lo sborone, sì. Esatto, allora ci sta che Luis Enrique dica questo. Sì. Poi un'ultima cosa sul derby di Milano, quello che non si capisce mai è questa famosa discrezionalità dell'arbitro. Cioè, se l'arbitro ha una discrezione talmente importante da poter condizionare gli ultimi minuti della partita, i regolamenti secondo me andrebbero rivisti. Penso solo questo. Se l'arbitro assegna dei minuti di recupero e i giocatori si rotolano per terra e l'arbitro mostra a tutti il cronometro dicendo che il tempo non sta andando avanti, è nelle sue piene facoltà. Non so cosa ne pensa il professor Cristiano Gatti, autore dei retini grigi prestigiosi del Corriere della Sera. Ciao Cristiano. Saluto tutti, certo. Ciao Carlo. Ciao. Scusa, era una domanda o aspetto il mio turno? No, era una domanda cui ti invito ad una risposta. Certo, no, guarda, la mia risposta è molto semplice. Noi italiani abbiamo un vizio antichissimo. Scusa se sono un po' macabro, ma per capirci, che per affrontare il problema esiste quando ci scappa il morto, no? Dobbiamo sì. Dire. Per cui cosa succede? Che adesso diventa una questione da guerra mondiale la discrezionalità dell'arbitro, i 7 minuti e bla bla bla, solo perché il gol è arrivato al 97esimo. Se la partita fosse finita al 99esimo con un arbitro con l'orologio rotto ma nessuno avesse fatto gol, noi non se ne saremmo neanche accorti. Ecco, allora, o affrontiamo i problemi seriamente a prescindere dall'andamento specifico, oppure dovremmo anche piantarla di sollevare tutte queste questioni così vitali solo perché è arrivato il gol in quel momento e in quella situazione particolare. Ora, io dico che l'arbitro è giusto come il giudice si mantenga abbia, più che si mantenga lui, ma che abbia la possibilità di esercitare quello che si chiama il libero arbitrio. Sì. Chiunque si trovi a giudicare una situazione deve usare la sua propria intelligenza con il famoso metodo che dice i codici del buon padre di famiglia, che è volgarmente detto il buon senso. Qualunque giudice, in qualunque situazione penale, civile e nello sport ovviamente, deve avere la possibilità di usare la sua intelligenza entro le regole che esistono. Nel caso specifico poi devo anche dire che molte squadre nostre dovrebbero poi risparmiarsi il piagnisteo, perché è un vizio tutto nostro, no? Quando ti va bene il risultato, perdere tempo, buttare fuori il pallone, metterci due ore a ricalzare. E cosa succede? Che l'arbitro a quel punto ti fa vedere l'orologio e ti dice: guarda, perdi pure tempo, ma sappi che poi noi giochiamo. Allora, la verità sta nel mezzo tra quello che mi diceva prima Torricelli, e cioè è una regola vecchia come il mondo quella di fare la manfrina in quei momenti lì. Però dall'altra parte l'arbitro ha tutti i diritti di non accettare la manfrina e farti vedere l'orologio. La mettiamo in questo modo e tagliamo la testa al topo più che al toro. Concordo pienamente. Ascolta, sapevi che fare lo spaccone in napoletano si dice fare lo spagnolo? Lo sapevi? Giuro, no. Me lo scrive un amico, Arturo, di SMS. Tu Carlo che fai spesso lo spaccone, quindi io faccio lo spaccone, sono uno spaccone nato, mai come Luis Enrique, che dice alla Juventus possiamo farne 3 in 3 minuti, l'obiettivo è farne 5, e poi come scrive Cristiano Gatti quando è in forma, come dico io ormai da giorni, il bambino che ulula nel bosco per farsi passare la paura del lupo. Ti dico la sincera verità, Carlo, io prima dell'andata, sai quando ti chiedono il pronostico, quando bisogna un po' sbilanciarsi, perché sbilanciarsi dopo sono buoni tutti, ero proprio sicuro che questa sarebbe stata la volta buona per mandare in pensione il Barcellona, che la Juve era la squadra giusta nel momento giusto per smascherare una volta per tutti i sintomi di vecchiaia di una squadra che è stata grandissima, immensa, che ci ha fatto divertire da matti, ma che ha evidenti segni di declino, di decomposizione. E per cui figurati, a maggior ragione adesso con 3 gol di scarto, Luis Enrique può dire quello che vuole, tutti abbiamo quest'incubo davanti del PSG, ma io voglio proprio vedere la Juve che becca 4-5 gol. Io non ci credo, e ovviamente siamo sempre pronti a rimangiarci quello che diciamo sicuro, prima. Ma come abbiamo fatto mille volte, Cristiano, ma d'altra parte, scusami, invecchiamo noi perché non devono finire i cicli delle squadre di calcio? È finito quello dell'Ajax di Cruyff. È finito quello dell'Ajax di Cruyff, è finito quello del Milan di Berlusconi, finirà anche quello del Barcellona. A proposito di Milan di Berlusconi, cosa hai provato l'altro giorno quando è stato inchiostrato il contratto? Prima di tutto un senso di liberazione, perché non ce la facevamo più, ecco, eravamo abbastanza provati dalla novela. Punto 2, come si diceva prima del Barcellona, siamo grati al Milan berlusconiano per il divertimento puro che ci ha riservato, perché milanisti o no, interisti, juventini, nessuno può negare che quell'epoca particolare è stata grandiosa e soprattutto ha portato il grande cambiamento anche nel calcio italiano, perché al di là del numero delle coppe, se mi permetti Carlo, per me il grande merito del Milan sacchiano e quindi berlusconiano, perché lui l'ha scelto, lui ci ha scommesso, gli ha dato atto, e al di là delle vittorie è stato proprio lo stravolgimento della nostra mentalità. Fino ad allora noi andavamo a giocare appena a chiasso e già eravamo chiusi tutti in area a sparare palloni in tribuna. e anche quando vincevamo a Wembley contro l'Inghilterra, se ti ricordi, passavamo la metà campo al 92esimo e facevamo gol con Cappello in contropiede. Ecco, invece con Sacchi il calcio italiano ha preso coscienza delle sue forze, ha preso coraggio, ha preso personalità e ha cominciato ad andare a giocare all'estero nella metà campo avversaria. È stata questa, secondo me, la vera grande novità, la vera grande rivoluzione. È esattamente quello che penso io, quindi rischieremo di annoiarci proseguendo su questo discorso. Piuttosto uso la tua sconfinata fantasia per immaginare la Milano del pallone dell'anno 21, anche perché io insisto nel dire che le dinastie sono il male assoluto per qualunque sport, quella della Juventus inclusa, ma come sono state tutte le grandi dinastie, anche nel ciclismo, anche nella Formula 1. Scegli tu lo sport. Il calcio italiano ha bisogno di una Milano forte, così come il calcio italiano aveva bisogno di una Juventus forte nel momento in cui la Juventus non lo era. Guarda, infatti non starei a fare tanto del romanticismo, del purismo in quest'epoca. Abbiamo tumulato i giocatori bandiera, abbiamo tumulato il capitale familiare, il grande magnate, gli affetti, bla bla bla bla. Oramai, dopo le quotazioni in borsa, che non sono di ieri, i grandi club dello sport hanno altre logiche, altri sentimenti, vogliamo dire un altro cuore, per cui bisogna che ci rassegniamo. Tutto il mondo è cambiato, non si vede perché il calcio dovrebbe stare fermo all'oratorio, al secchio con la spugna dentro e al massaggiatore con le scarpe col mocassino sotto la tuta. Il calcio è cambiato, siamo stati innamorati di quel calcio, però dobbiamo essere pronti ad accettare anche il calcio nuovo. Io dico che siano cinesi, arabi o russi, sinceramente fa poca differenza. La vera discriminante qual è che davvero siano, come succede nel sistema economico, no? che ci siano investitori stranieri che però comprano l'italianità. Sì, e non fanno nulla per stravolgerla. Io devo dire che utilizzare i capitali del mondo per mantenere la nostra specificità può essere una grande opportunità, che ci aiuta a superare le malinconie, i rimpianti e le tristezze. Bisogna vedere se i cinesi, come hanno dimostrato in altre realtà peraltro, hanno acquisito tantissime nostre aziende, tante nostre realtà di primo piano, e hanno avuto il bon ton, comunque il rispetto della nostra specificità. Quello hanno voluto perché quello amano, quello apprezzano, e non hanno fatto nulla per cinesizzare. È un grande discorso che vale in valore assoluto. Lo so che sta male, vale in valore assoluto, però è un macro discorso totalmente accettabile, totalmente comprensibile, e che io credo si applicherà anche nel calcio, anche perché è finita. Il calcio italiano è stato gestito, in parte è ancora gestito, come lo era negli anni 40 e 50, no? Con il padrone dalle belle braghe bianche che tirava fuori le palanche. Adesso non è più così, non è più così in tutto il mondo, non è più così, e io credo che anche con i cinesi non sarà più così. Secondo me la discriminante, davvero prosaico quale sono, è che abbiano il grano oppure non ce l'abbiano. Quelli dell'Inter ce l'hanno, quelli del Milan non ne sono ancora così convinto. Cristiano, ti chiedo ancora un attimo di pazienza, traffico, poi ti faccio un altro paio di domande che mi frullano in testa. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Tutti convocati. Cristiano Gatti del Corriere della Sera. Avrei altre due domande che mi furono in testa, come ti ho detto prima. Ma Spalletti aveva proprio bisogno di andare avanti con le supercazzole dal 7 gennaio fino ad oggi per dire che andava via dalla Roma? Guarda, l'idea che è passata, no, non è il primo, perché già lo stesso Enrique ha fatto lo stesso. Questa idea che adesso questi allenatori con largo anticipo mettano su il film della loro uscita, a me non esalta. Devo dire che trovo noioso poi ad ogni partita, in base alla vittoria, al pareggio, alla sconfitta, vedere dalla faccia l'umore, se ne va, non ne va, cioè non è mai riuscito ad appassionarmi. Io, guarda, sono convinto che tanti allenatori sono bravi, non mancano sulla piazza e nessuno è insostituibile. Tanto sì. Meno Spalletti, sì. Che comunque, voglio dire, passerà, e però resterà la Roma. È che tanti di loro, entrando nella fase ieratica, sì. Della loro vita, pensano le cose, le squadre esistano a seconda della vita loro, della posizione loro. Solo si presentino con la tunica bianca in conferenza stampa. Ecco, sì, per cui credo che poi abbiamo tutti colpe ad aver creato i mostri, nel senso che pubblico, giornalisti danno anche troppo rilievo. Poi la piazza romana, dobbiamo dirlo, i nostri colleghi sono particolarmente assatanati su questa faccenda, e per cui hanno contribuito a creare tutta questa atmosfera da grande suspense, da grande giallo. Io ti dico, non mi pare che Spalletti abbia fatto più e meglio dei suoi predecessori. Non mi piace quando butta fuori dal ritiro Totti, che per quanto lo posso aggiungere, a me fa incazzare da morire invece il trattamento che ha riservato a Totti quest'anno, perché stavo arrivando, perché, non mi piace quando ipocritamente fa finta di dire che senza Totti non c'è la Roma, però tranquillamente lo umilia con gli ultimi 4 minuti che si riservano agli stagisti del calcio, non a certi giocatori. L'ha fatto anche Conte con Del Piero, ricordo, per la cronaca. Sì, ma infatti non è un discorso contro Spalletti, è un discorso che in questo caso riguarda Spalletti. Io ti dico che la Roma farebbe bene a liberarsi presto di questo problema. Ci sono altri allenatori molto bravi in giro, magari senza avere una fama intercontinentale, e Spalletti continuiamo ad aspettare che ci dimostri in Italia che di conoscere la strada che porta allo scudetto. Bravo, questo volevo dire. E l'ultima cosa che ti chiedo, l'Inter ha bisogno di un super allenatore? L'Inter del futuro, l'Inter che verrà, ha bisogno di un califfo della panchina? Guarda, sarò molto banale, perché questa cosa l'hanno già detta e scritta tutti. Secondo me l'Inter ha bisogno di un grande Marotta, cioè di un capo, di qualcuno che comandi, ovviamente non solo una persona, due persone, però di qualcuno che comandi, che eserciti l'antica arte del comando, perché comando non è in sé di per sé una cosa brutta. Saper comandare, avere il carisma, essere autorevole è una grande virtù, purtroppo è di pochi. Però l'Inter ha un disperato bisogno di una guida. Io non so se poi i cinesi si concentrino più su quello o invece se come al solito si vada sulla via più semplice dell'allenatore. Io, se fossi interista, sarei molto preoccupato, perché la storia degli allenatori all'Inter in particolare, veniamo da 20 anni di una catena di montaggio, no? Arrivano all'Inter come geni e se ne vanno tritati come impediti, più o meno. Se salviamo Mourinho, facci caso, tutti quelli che sono arrivati erano i più bravi e se ne andavano via. Infatti, della serie a Canis un effesso, neanche in Portogallo, Mourinho ha alzato la coppa e è andato via sulla macchina del Real Madrid. Prima di subire l'ultimo passaggio. Ecco, per cui ci sta anche che cambi l'allenatore, non è che questa sia una difesa a prescindere di Pioli. Ripeto, per me gli allenatori non sono fondamentali al 100%, ce ne sono tanti bravi, ma è veramente l'impronta societaria che alla fine, nella scelta dell'allenatore, nella gestione dell'allenatore, delle rose, diventa decisiva. Anche qui sono d'accordo con te, rischieremo di annoiarci. Non è la catena di destra o la catena di sinistra, ma è la catena di comando, quella che è da costruire per prima cosa. Grazie Cristiano. Ciao. A voi. Ciao, saluto un abbraccio. Tutti. Ciao Cristiano Gatti. Mimmo da Roma, buongiorno. Buonasera gente e soprattutto buone vacanze fatte. Buone vacanze fatte a chi le ha fatte? Una riflessione su questa scalata delle milanesi, il pericolo di Agnelli di trovarsi chiaramente alle calcagne, non più Roma e Napoli ma Inter o Milan, per cui una riflessione su Allegri, vincendo il triplete, un consiglio di cambiare aria o di permanere, e questa è insomma una riflessione. Io scapperei veloce come il vento, piuttosto a costo di raggiungere Luis Enrique sulle spiagge di Gijón a prendersi un anno sabbatico, perché quando sei arrivato lì l'unica cosa che puoi fare è voltare pagina, quindi... che probabilisticamente succede a pochi, quindi potrebbe essere anche l'anno suo. Sì. Poi volevo, visto che non c'è Pardo, mi dispiace, ieri ho visto un film. Pardo in volo, che ci vuole fare? Sta andando a Barcellona, domani commenterà. Se gli passa questa informazione, un suo sosia, come cartone animato di Mr. Peabody e Sherman, ed è Agamennone, è preciso a Pardo. Ho visto ieri il film con mia figlia e ho detto, quello è Pardo, se gli può passare questa notizia. Va bene, sarà fatto, passerò la velina. Non conosco il personaggio, però domani lo chiamo Agamennone. Paolo dalla provincia di Vicenza, velocissimo. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. È un piacere ascoltarvi. Volevo solo semplicemente e banalmente dire, il tempo di recupero non sarebbe gestibile solo con il tempo effettivo, senza mai nessun problema e nessuna discrezionalità. Grazie. Ne abbiamo già parlato, Paolo. Vale la risposta che ho dato prima a un ascoltatore che poneva il suo stesso quesito, aggiungendo le parole di Cristiano Gatti, che ha detto: se non ci fosse stato quel gol dell'Inter non ne avremmo parlato per giorni, giorni, giorni e giorni, nemmeno Orsato avesse avuto il cronometro rotto e la partita fosse finita al minuto 100. Ci fermiamo per il GR e poi parliamo di questo attacco che pare in corso, nonostante Filippo Merici smentisca, dell'Inter a Simeone. State con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. L'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, o vuoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti e andiamo. Tutti convocati. Che effetto ti ha fatto tornare a San Siro da allenatore? Bello, soprattutto il ricordo della gente. Credo che il fatto di questo famoso 5 di maggio, la gente sempre ha visto in me uno corretto. Che ha offuscato il bel ricordo. Che... Assolutamente, vedono in me uno che non ci ha compromesso con nessuno e credo che quello è il rispetto che mi ho ganato prima sul campo e dopo adesso da allenatore. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Xavier, siempre habíamos cualquier parola per telefono, y niente. Sempre l'ho detto, non ho paura di dirlo, qualche giorno tornerò a Milano perché ho fatto bene, ho lasciato un gran ricordo e ho gli obiettivi come allenatore di farlo. Sono molto contento dove sono, sono orgoglioso di essere all'Atletico di Madrid perché sto dove voglio stare, però sono un allenatore giovane, mi credo, e sicuramente qualche giorno andrò a Milano. Ormai non parlerò mai più di questo tema perché ognuno la toma come vuole e allora quando è così preferisco stare in silenzio, ormai ho detto quello che penso, non parlerò più di questo. Non hai parlato tu stavolta, ha parlato tuo figlio. No, no, lui ha risposto una cosa normale e dopodiché hanno fatto tante chiacchiere che credo che non servono a niente. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adesso sto aspettando il primo messaggio che mi arriva. Comunisti 800240024, vale anche al telefono oltre che messaggi, 349-238-6666. No, ma ovviamente la colonna sonora che abbiamo scelto, grazie a Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato e Edoardo Lavezzari, ricorda quella memorabile copertina della Gazzetta dello Sport, il Ciolo in versione Che. Ciao Mirko Graziano. Ciao, ciao, buongiorno a tutti voi. Senti, oggi scrivi proprio sul giornale Rosa, che è il tuo, questo articolo che ha rapidamente fatto il giro di tutti i siti europei. Inter 50 milioni in 5 anni per convincere Simeone o Conte. Io sono d'accordo, sì, con il mio amico Cristiano Gatti, che ho sentito prima nel dire che l'Inter ha bisogno, oltre che della catena di destra e della catena di sinistra, anche della catena di comando, però secondo me ha bisogno anche di un top driver, con tutto il rispetto per il lavoro di Pioli, che secondo me rimane eccellente al di là della flessione dei risultati attuale, che sempre secondo me non inciderà poi così tanto sul suo futuro, perché dipende dal disegno generale e non dai singoli particolari. Quantomeno ha rimesso ordine all'ambiente. Mi spieghi in che cosa consiste questo assalto al top driver? Beh, a parte che è storia dell'Inter, no? L'Inter vince quando al comando c'è un sergente di ferro, giusto per citare Eugenio Bersellini, no? Sì. Il primo grande sergente di ferro dell'Inter, per poi andare a Trapattoni, lo stesso primo Mancini era uno molto duro. Poi per non parlare di Mourinho. Esattamente, poi Giuseppe Mourinho, e prima ancora possiamo parlare di Elenio Herrera. Insomma, è nel DNA dell'Inter, lo hanno capito anche i cinesi, la proprietà cinese, e hanno capito che è il momento di accelerare l'assalto ai due grandi condottieri che ci sono in questo momento in circolazione in Europa, anche se sotto contratto, ovvero Antonio Conte e Diego Paolo Simeone. Però per convincerli questi bisogna rilanciare, esagerare anche da un certo punto di vista per quanto riguarda l'ingaggio. Un po' quello che fece, fra l'altro, se vi ricordate, proprio Massimo Moratti con José Mourinho, che cambiò il vincente Roberto Mancini, mm-hmm, e nel momento in cui ci fu l'occasione di arrivare al grande condottiero, ovvero José Mourinho, lo coprì di soldi, più di 10 milioni all'anno, e lo portò all'Inter per dare l'assalto alla Champions League. L'Inter adesso deve riconquistare velocemente la ribalta internazionale, anche per una questione economica, non c'è più tempo da perdere, e gli allenatori vanno convinti anche dal punto di vista economico, forti già in effetti di un progetto importante. E allora da qui la grande offerta che è pronta, che non è ancora stata ufficializzata ai due tecnici, ma è già stata fatta arrivare tramite intermediari, e l'offerta di quelle toste 50-55 milioni nei 5 anni, perché si parla di 10-11 milioni all'anno. Sì, anche perché dall'Inghilterra si parla di un Conte che, vincendo la Premier, verrebbe coperto d'oro da Abramovic. Assolutamente, 10 milioni infatti, l'anno. Infatti non puoi fare altro che esagerare per provare a strapparli. Adesso aspettiamoci anche un sacco di smentite, perché il Chelsea è in corsa per la Premier, l'Atletico per la Champions, quindi è normale che adesso nessuno si voglia ma io le smentite esporre. Guarda, tu ti ricordi però, meglio di me quante volte venne smentita la notizia secondo cui Mourinho se ne sarebbe andato dall'Inter nella stagione del triplete, quindi sono cose che mi impressionano fino a un certo punto. Oppure per quanto mi riguarda, che l'ho vissuta in prima persona, la tirai fuori fra i primi, la notizia dell'addio di Pogba di fronte a un ingaggio clamoroso del Manchester United, prendendomi parecchi insulti dei tifosi juventini via social che mi accusavano di voler destabilizzare l'ambiente. Purtroppo quando arrivano certe offerte, purtroppo per fortuna di chi le riceve, insomma. Ma sei d'accordo con me sul fatto che comunque Pioli abbia fatto un eccellente lavoro nel mettere ordine in tutto il casino che c'era all'Inter? Guarda, Pioli ha salvato l'Inter, te lo posso dire, perché c'è stato un momento in cui l'Inter rischiava un tracollo pericolosissimo. Pioli ha risistemato da saggio allenatore italiano, da concreto allenatore italiano, ha risistemato l'ambiente, ha rivalutato anche alcuni giocatori che erano finiti davvero ai margini sia del progetto tecnico ma anche ai margini a livello economico. Io penso a Kondogbia, che ora comunque è tornato ad essere un giocatore di un certo livello, lo stesso Brozovic che era finito nel dimenticatorio con De Boer, poi ha azzeccato una serie di partite che lo ha riportato un attimino alla ribalta e che lo pone oggi fra gli uomini mercato più importanti per la prossima estate, e quindi ha fatto un lavoro importantissimo. Poi però c'è il grande salto di qualità, e qui la proprietà deve valutare quale sia l'uomo giusto per non fallire, perché l'anno prossimo sarà vietato fallire. Sì. Si entra in quattro in Champions League, non entrare in quattro equivale a un disastro sportivo. Questo lo capiscono anche i bambini in età prescolare. Ti chiedo ancora questo: che mercato farà Suning? E soprattutto, verrà costruita la catena di comando di cui si parlava prima con Cristiano Gatti? Non credo che Suning si lascerà di nuovo infinocchiare da agenti dal nome impronunciabile come ha fatto la scorsa estate. Bravo, no, perché i cinesi imparano dai loro errori in maniera molto veloce. Sarà un mercato molto intelligente. L'Inter sa già dove deve intervenire, 1/2 difensori centrali, dipende dal fatto da Mourinho, insomma, se parte Mourinho ne arriveranno due, se non parte Mourinho ne arriverà uno, almeno un terzino importante, un centrocampista di esperienza e di gamba, un vice Icardi e un attaccante esterno di livello internazionale. Questi sono gli obiettivi. L'Inter ha le risorse per andare all'assalto di giocatori importanti, ne avrà ancora di più perché sul mercato poi opererà molto bene anche in uscita, perché ci saranno parecchie uscite quest'anno e ci sono già molte richieste per i giocatori dell'Inter. Io credo che l'Inter nel prossimo mercato potrebbe investire fra i 150-160 milioni, cessioni comprese naturalmente, non sono affatto pochi. Grazie Mirko, a presto. Ciao, un abbraccio. Grazie, grazie Mirko Graziano. Oggi è una puntata di grandi vecchi amici, c'è Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Senti, non ho voglia oggi di fare con te del romanticismo su passaggio di consegne, sul tuo Milan. L'abbiamo già fatto prima, diciamo che l'abbiamo già fatto prima, ci siamo già tolti il dente e il dolore. Ti chiedo invece questo: tu sei nel sistema operativo del Milan da molti anni, a capo di un settore giovanile che sta producendo quasi in massa giocatori di grande interesse. Come avete vissuto dall'interno invece il passaggio di consegne? Beh, noi diciamo così stiamo attendendo di essere poi contattati dal nuovo management, anche se io ho avuto un incontro al centro sportivo Wismar in occasione della nostra partita della primavera con il Vicenza proprio venerdì, e Mirabelli, il nuovo responsabile dell'area tecnica, è venuto e abbiamo parlato durante la gara di calcio. È stato bello, un bel confronto, e ovviamente come ho già detto io sono a disposizione del nuovo management per cercare di spiegare, di far loro capire com'è la nostra situazione, come si è lavorato finora, e ovviamente attendere quelle che sono le loro indicazioni, direi ascoltando, e poi cercare di capire che quale sarà il futuro mio e di tutto il gruppo di lavoro attuale. Quale che sia il disegno dell'organigramma, non ci vuole un genio per contare i giocatori che negli ultimi anni la primavera ha fornito alla prima squadra, da Donnarumma in giù. Sì, però voglio dire, io credo che quando arrivi un management nuovo ci sia, no? bisogna rispettarlo innanzitutto, e quindi mettersi a disposizione, e sono loro che poi prenderanno le decisioni e valuteranno il tutto. Io credo che non io più dell'impegno, della voglia di lavorare in un certo modo, non posso dare, sono sereno da questo punto di vista, però insomma non avendo solo, ho ascoltato ovviamente le parole del dottor Fassone nella conferenza stampa, ha detto che vorrà parlare, no? sia con Franco che con me, quindi assolutamente insomma da questo punto di vista sono ben lieto, no? di poter fare un confronto, e dopodiché ripeto, io sono solo a disposizione, faccio parte di un gruppo di lavoro del settore giovanile, ha cercato di fare del proprio meglio, abbiamo avuto dei risultati, qualcosa è andato non è andato neanche verso giusto, perché poi dobbiamo come riconoscere tutti, no? Che quando si lavora si può far bene e qualche risultato è stato raggiunto, come si possono commettere degli errori. Quindi ripeto, da parte mia e da parte dei miei collaboratori ovviamente c'è una voglia di ascoltare quello che ci verrà, assolutamente. Assolutamente. Il contenuto. Scusa, te lo chiedo, ma saresti anche disponibile, tu dici sono a disposizione, anche a cambiare ruolo, perché si è molto parlato di quella bandiera operativa in società di cui il Milan, che il Milan vorrebbe. L'altro giorno abbiamo parlato con Albertini, ha detto io a disposizione, il mio numero di telefono Fassone lo conosce e quindi sono qui. A te interesserebbe un ruolo di quel tipo? Guarda, Ubi Maior, Minor Cesto. Ma cosa stai una dicendo? Bandiera come Franco Baresi, voglio dire. Vabbè. Assolutamente. Vabbè. Insomma, credo che Franco sia da questo punto di vista il capitano, no? Il capitano. Sempre stato da questo punto di vista. Il capitano con le lettere maiuscole. Assolutamente, ripeto, io poi ho fatto la mia esperienza in questi anni, ovviamente. Però ecco, c'è sempre da crescere, da imparare, tante cose, insomma, quando non si deve mai pensare di aver acquisito tutto il sapere, tutt'altro, anzi, quindi anche questo lo cerco di portarlo anche nel nostro settore giovanile, facendo sempre molte giornate di formazione per i nostri tecnici e per tutte le persone che lavorano qui, quindi deve essere altrettanto per me. Ma sì, chiudiamo con la romanticheria, dai Filippo. Ma sì, diamo una botta di romanticismo. Il giorno indimenticabile della presidenza Berlusconi per Filippo Gaddi. Sono tanti, io l'ho detto. Scegliene uno. Quando... A me piace volare in elicottero, anche se poi l'ho fatto pochissime volte, non alla guida assolutamente, però quando siamo arrivati all'arena di Verona, la presentazione sulla, ma di Milano, non siete arrivati all'arena di Verona, avreste sbagliato strada. All'arena di Milano è stato venuto in mente quando mia mamma mi portava, ahimè, quando ero piccolo, a ascoltare le varie opere lì, no, all'arena di Milano, scusate. È stato veramente straordinario. Quindi il momento da cui tutto ebbe inizio. Ma sì, facciamo così, romantici fino ad essere quasi sdolcinati. Grazie Filippo. Va bene, grazie a voi. Ciao, un abbraccio grazie forte. A voi. Ciao a tutti. Ciao. Fausto, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, tre considerazioni sul derby, sì. Velocissime, così lascio spazio ad altri. Uno. Pioli ha canato tutte le sostituzioni. Io avrei ad esempio tolto João Mario, che nel secondo tempo era un filino calato, e messo dentro Banega, che salta l'uomo, ha più visione del passaggio filtrante, prende qualche fallo, che fare quello che ha fatto lui. Due, il rinvio di Miranda prima del pareggio del Milan. Mi è sembrato che stesse rinviando un panettone di quelli di cemento che mettono per impedire di parcheggiare, perché è terribile l'errore che ha fatto. E tre, io sono molto interista e a volte anche antimilanista, però i 7 minuti di recupero ce li siamo meritati, perché ne abbiamo persi almeno 20. Non è che ne avete persi almeno 20, fare. Più che altro perché Orsato ha fatto chiaramente intendere che che il tempo non stava scorrendo, e quindi grandi discussioni, grandi dubbi su quello non ce ne sono. Io invece la metto su questo punto, al di là delle sostituzioni che poi col senno di poi sono giuste o sbagliate a seconda di quello che producono, io dico che sia l'Inter che il Milan sono due squadre che hanno un deficit clamoroso di personalità, e quella si compra, i giocatori di personalità si comprano, e su questo credo che sia l'Inter che il Milan debbano lavorare. Massimo D'Ascoli, buongiorno. Buongiorno, io premetto di essere tifoso laziale, però vorrei spezzare una lancia a favore di Spalletti per tutte le critiche che laziale spezza la lancia per Spalletti. Esatto, sì. Questa, da laziale, questa è strana. Perché sono... sono sempre stato attento alle dinamiche degli spogliatoi. Io da allenatore di un altro sport, però mi piace valutare certi quale rapporti sport? Tra pallavolo, pallavolo, giocatore, allenatore, ecco. E la Roma, pur non essendo una squadra eccezionale, è comunque seconda in classifica. Fino a un paio di giornate fa magari poteva anche aspirare a contendere uno scudetto molto molto difficile alla Juve. E se ha ottenuto determinati risultati è perché l'allenatore è riuscito a mantenere un equilibrio all'interno di un gruppo complicato, perché l'ambiente romano è complicato di suo, e a gestire la parabola discendente di un grandissimo calciatore che magari ora non è più un grandissimo calciatore. Io trovo che la gestione di un grandissimo calciatore sia stata vagamente offensiva, lo dico per Totti, l'ho detto per Del Piero, perché quando ti faccio entrare negli ultimi 4 minuti di una partita ormai decisa, io fossi grandissimo calciatore direi no, adesso vai in campo tu. Quindi la gestione è stata così. Quanto alla la Roma è forte, quanto al grandissimo risultato vediamo, perché il secondo posto è in discussione e secondo o terzo posto fa tutta la differenza del mondo. E quanto al resto, Spalletti ha fatto, sono d'accordo con Cristiano Gatti, più o meno bene, in linea con i suoi predecessori. Quindi finiamo così di spezzare le lance, ecco. Invece voglio parlare di qualcosa che sta accadendo dall'altra parte del mondo, ma che interessa un sacco di appassionati di sport italiani. Puts up the jumper, won't go, game over, Cavs survive. I need you right Let's now. Let's get lost. Lillard gets past Durant, drives, oh, blocked by Green, he did it again. And you don't give a fuck what they are. 5 seconds left, Joe Johnson with 4, Johnson with 2, drives in, puts it up, gets the bounce, at the gun, and the Jazz win game 1, ISO Joe. Davide Pessina sta vivendo sul fuso orario di di boh, scegli tu, est-ovest è uguale anche esatto. se pure fa una certa differenza, nel senso, 3 ore ballano comunque, sono 3 ore che ballano sì, tra est e ovest, ma soprattutto sono 6/9 che ballano tra l'Italia e gli Stati Uniti. Senti, sono playoff iniziati con un grande spavento per Cleveland, che mi sembra non giocare benissimo, ma si è portata sul 2-0 con Indiana. E partirei dai 2-0 che si sono già consolidati. Sì, uno più netto, quello di San Antonio con Memphis. Con Memphis. Non è così sorprendente. Tutto sommato, la prima vinta facile dopo un inizio difficile, la seconda controllata, per cui quella serie sembra già abbastanza indirizzata. Cleveland si è spaventata davvero la prima, la seconda l'ha vinta un pochino meglio ma senza brillare, insomma, però si sa che quella è una squadra molto esperta, come dire, tarata per arrivare fino a giugno alle finals, e quindi col passare del tempo potrà crescere, però sicuramente deve mettere a posto 2 o 3 cose, difesa su tutto. Sì, difesa su tutto, e poi comunque i giochi in isolamento per LeBron James, va bene, è il più bravo che c'è, però insomma, non sono il massimo del godimento cestistico. Lasciami dire. No, sono d'accordo, però la caratteristica loro è quella, cercano di sfruttare al meglio quella caratteristica. Poi c'è stata anche la storia veramente commovente, Davide, di Isaiah Thomas, che insomma è stata la prima grande storia di questi playoff, che ha perso un incidente stradale alla sorella di 22 anni ha fatto il giro del mondo il filmato di lui che piange di rotto in panchina durante la sessione di tiro, poi entra in campo e segna 33 punti pur in una partita che Boston, che ha vinto la conference, ha perso. Vuol dire avere dentro tanta roba, secondo me. Sì, sono d'accordissimo. Sai, spesso nella narrazione dello sport, no, si abusa di parole come dramma, tragedia, sempre ovviamente con senso sportivo. Beh, qui siamo davvero davanti a una tragedia vera della vita, e questo ragazzo è andato, è riuscito ad andare oltre, è riuscito comunque a trasformare tutta la tristezza, la sofferenza in energia per giocare. Ma che avesse qualcosa dentro di speciale, Isaiah Thomas, credo. Bastava vederlo per scoprirlo, un giocatore veramente piccolo di statura, scelto molto basso al draft, sì, ha dovuto conquistarsi sempre tutto, adesso è diventato uno dei primissimi giocatori della Lega, per cui andare contro le difficoltà è un po' nella sua natura, ecco, probabilmente non si sarebbe mai aspettato di dover affrontare una cosa del genere. Senti, bisogna risolvere un problema, un'ultima cosa che ti chiedo, il problema è questo, che tu e Flavio Tranquillo vi inventate un modo per più semplice, per chiamare Aketu Kompo, visto che è un nome con il quale dovremmo fare i conti. Io l'ho visto giocare con Milwaukee e mi sembra un giocatore già clamoroso, 2 metri e 11 che gioca guardia, playmaker, centro, sì, ma con apertura all'area di 2 metri e 20, bisogna trovargli, ragazzi, troviamogli un soprannome. Gianni. Lo chiamiamo Gianni? Esatto. Va bene, allora per comodità. Gianni, noi per comodità lo chiamiamo Gianni. Allora da questo momento in poi Gianni, esatto, è Aketu Kompo, che esatto, è un nome con cui dovremmo fare i conti per i prossimi anni. Ti abbraccio, mio caro. Un abbraccio a te. Ciao Davide Pessina. E così chiudiamo questa puntata di Tutti Convocati, tornando domani. L'appuntamento è dopo il GR delle 14. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzano in redazione. Ciao! Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!